Allora riprendiamo. Ecco, questa gli interventi di stamattina e di oggi pomeriggio, ricordo che rientrano in un quadro di esperienze di ricerca, problemi e prospettive di storia sociale, religiosa e istituzionale. E la relazione del dottor Mario Rizzo, risorse, agenti, relazioni nelle visitas sì. Generale dell'Estato di Milano tra fine 5 e inizio 600, appunto ci porta, credo, a una utile comparazione con una fonte per certi versi simile a quella delle visite pastorali, anche se di origine e di obiettivi diversi. Certo. Spero, sotto questo punto di vista, di non deludervi troppo. Mi scuso anticipatamente per la voce e per la tosse, ma dovrete aver pazienza. L'argomento proposto potrà forse sembrare eccentrico rispetto al tema del convegno. Teoricamente, più congrua sarebbe stata una comparazione sistematica tra visitas laiche e visite ecclesiastiche, che però in effetti risultano tanto diverse da rendere poco significativo un raffronto diretto tra entità sostanzialmente incommensurabili. Si è pertanto ritenuto di presentare le visite generali nella loro complessità, approfondendone alcune implicazioni ecclesiastiche. La comunicazione si articolerà, nei seguenti punti. Primo, l'istituto della visita nelle sue varie manifestazioni. Secondo, un'interpretazione delle visite generali milanesi nel contesto dell'impero spagnolo. Terzo, un episodio seicentesco emblematico dei rapporti tra Chiesa e monarchia spagnola. Ricostruendo le origini medievali della visita, emergono legami con la Peschissa, giudizio straordinario sull'operato di un magistrato a istanza dei suoi giudicabili, distinto dalla regolare verifica dell'attività di ciascun giusdicente a fine carica, juicio de residencia. Sarebbe però fuorviante pensare a una mera contrapposizione tra istituti, che empiricamente risultavano invece meno differenziati di quanto lascerebbero supporre i loro presunti requisiti teorici, mentre abbondavano gli influssi reciproci. Lungi dall'essere semplicemente frutto di sfasamento fra teoria giuridica e prassi amministrativa, questa fluidità istituzionale garantiva una duttilità che si riflette nella ricca casistica delle visite cinque-seicentesche nei territori asburgici. Vari erano gli agenti delle ispezioni e i loro oggetti: magistrati, tribunali, consigli, uffici contabili, eserciti, flotte, sino alle visite generali, riguardanti l'intero apparato giudiziario amministrativo di una provincia. Tra 1530 e 1560 si definì una più organica prassi delle visite generali, che conobbero la loro età aurea tra 1580 e 1610, in simbiosi con il Consejo d'Italia. Vediamo cosa caratterizzava la complessa procedura delle visite generali, che solevano protrarsi almeno 4 o 5 anni. Nominato dal re, il visitatore generale riceveva una commission che stabiliva i poteri del magistrato, gli obiettivi dell'ispezione e le sue modalità. Giunto a Milano, il visitatore bandiva la visita, invitando i sudditi a collaborare con deposizioni o denunce scritte. Iniziava quindi l'escussione dei testi, recatisi spontaneamente dal magistrato o convocati d'ufficio. Si sollecitavano i sudditi a denunciare gli abusi loro noti, allettandoli con ricompense in denaro. Altro incentivo alla delazione era l'anonimato, per tutelare i testimoni da eventuali rappresaglie. La segretezza è un elemento di affinità tra visita e inquisizione spagnola, così come la non indispensabilità della denuncia, la preparazione giuridico-canonistica dei visitatori, l'ampiezza dei loro poteri formali, l'avvio repentino dell'ispezione, la solennità dell'insediamento, l'ostentazione di severità e potenza, la struttura del tribunale, l'inappellabilità delle sentenze, i legami non solo procedurali, ma anche operativi tra visite generali e inquisizione in Sicilia. Peraltro, non sempre la riservatezza veniva rispettata, poiché gli inquisiti si adoperavano per ottenere informazioni, in modo da subornare i testimoni, o preparare la difesa. In base alle risultanze dell'istruttoria, il visitatore formulava e notificava le accuse, concedendo agli inquisiti un termine piuttosto breve per produrre i cosiddetti descargos. Si presentavano anche annotaciones alle principali magistrature, che rispondevano con altrettante defensiones. Infine, tutti gli atti della visita erano inviati a Madrid, poiché il visitatore non poteva sentenziare, ma al massimo proporre la sospensione dei magistrati contro cui fossero emersi indizi particolarmente gravi. Il giudizio era di competenza del re, coadiuvato dal Consiglio d'Italia. Di fatto, l'esame degli incartamenti veniva delegato a un'apposita junta, composta da importanti membri dei consigli regi e dal visitatore, la quale giunta proponeva assoluzioni e condanne, decretate ufficialmente dal re con eventuali modifiche e trasmesse poi al governatore perché le applicasse localmente. Il visitador generale era un magistrato straordinario, teoricamente dotato di poteri eccezionali per controllare l'intera struttura giudiziaria e amministrativa lombarda. Significativi sono i curricula di alcuni visitatori. Autentico professionista delle visite, Pedro Pacheco iniziò nel 1528, mentre era decano a Compostela, come visitatore dello Studium di Salamanca. In precedenza aveva seguito Adriano d'Utrecht a Roma, divenendone camerlengo. Nominato vescovo di Mondoñedo, si impegnò nelle visite pastorali, visitando inoltre le cancellerie regie di Granada e Valladolid. Fu poi arcivescovo di Ciudad Rodrigo, Pamplona, Jaén e Sigüenza. Divenuto cardinale, partecipò al Concilio di Trento sino al 49. Frattanto proseguiva la sua carriera come dignitario di Stato, svolgendo tra il 36 e il 38 la prima visita generale a Napoli, esperienza che ne avrebbe agevolato la nomina a viceré dal 53 al 55. Il successivo visitatore generale del Regno di Napoli, Gaspar de Quiroga, canonico a Toledo e vicario generale ad Alcalá de Henares, uditore di rota a Roma dal 1555, fu a Napoli dal 59 al 64. Fu poi membro del Consiglio di Castiglia e di quello dell'Inquisizione, incaricato di una visita al Consiglio della Crociata, vicario del Presidente del Consiglio d'Italia, vescovo di Cuenca, inquisitore generale, membro del Consiglio di Stato, cancelliere di Castiglia, arcivescovo di Toledo, cardinale nel 78, presidente della giunta della visita napoletana di Lope de Guzmán dall'84 all'88. Infine, e termino questo elenco forse un po' noioso, Felipe de Haro, appartenente sia pure per via illegittima a un cospicuo casato castigliano in possesso del titolo accademico di licenziado, arcidiacono di Jerez, canonico di Malaga, di cui uno zio era stato vescovo, canonico, giudice diocesano e vicario generale di Siviglia, inquisitore a Valencia, fu visitatore a Milano dal 1606 al 12. L'esperienza gli valse la nomina a reggente spagnolo per lo Stato di Milano nel Consiglio d'Italia. Fu poi commissario generale per la Cruzada. Queste note biografiche evidenziano alcuni elementi di rilievo. Primo, i visitatori vantavano solida preparazione giuridica e vasta esperienza amministrativa e giudiziaria, oltre a una certa versatilità. Li accomunava la costante compenetrazione tra carriera laica ed ecclesiastica, tra servizio della Chiesa e della monarchia, e alcuni di loro giunsero ad esercitare grande influenza. Ciò si comprende considerando l'importanza del clero nella realtà spagnola e la frequente presenza tra gli ecclesiastici iberici di personaggi usi a servire insieme l'autorità laica e religiosa, pensando alle analogie tra la visita e l'inquisizione, rammentando che i proventi dello status clericale rendevano meno onerose per le finanze regie le visite condotte da ecclesiastici. Scusate. L'utilizzo di personale ecclesiastico da parte dell'autorità laica non era cosa semplice. L'invio in Italia di ecclesiastici residenti presso diocesi castigliane implicava il rischio di sanzioni, secondo la normativa tridentina. Il re interveniva presso i capitoli interessati e la Santa Sede, affinché i visitatori godessero delle prebende di cui erano titolari in Spagna, benché assenti. Non erano trattative facili solitamente, perché spesso si intrecciavano con altre questioni e perché Roma ostentava riluttanza a soddisfare le richieste di deroga. L'eventuale concessione doveva infatti apparire inequivocabilmente una tantum. Analogo approccio si usava per le deroghe al diritto d'asilo o all'esenzione fiscale, affinché, cito, apparisca in ogni tempo che si conceda per mera grazia. Secondo, i visitatori erano quasi sempre castigliani, soprattutto inizialmente, in attesa di verificare l'affidabilità delle classi dirigenti indigene, parve opportuno incaricare personaggi di più sperimentata origine, tra i quali sarebbe stato inoltre più agevole trovare adeguate competenze. Un visitatore forestiero avrebbe dovuto essere anche meno sensibile alle pressioni locali. Terzo, per molti visitatori l'ispezione rappresentò non tanto il momento culminante di un prestigioso curriculum al servizio del re, quanto un trampolino verso onori ulteriori, un'indiretta conferma dell'importanza delle visite. Quale fu il significato delle visitas generales in Italia e a Milano in particolare? Anzitutto vanno esaminate le motivazioni ideologiche, a partire dall'immagine del sovrano giustiziere, radicata nella tradizione iberica tardo-medievale e trasmessa poi agli Austrias. Un concetto elementare nella sua immediata percepibilità da parte dei sudditi, ma dalle molteplici manifestazioni e implicazioni. Il potere risiedeva anzitutto nell'esercizio della giustizia, di cui il re era sommo dispensatore, in quanto autorità suprema, garante dell'ordine sociale. Il buon governo cui tendeva il principe non poteva quindi prescindere da una corretta amministrazione della giustizia. Se questa si fosse deteriorata, sarebbe toccato al re restaurarla, come appunto si proponevano le visitas. Gli Asburgo sentivano profondamente queste responsabilità e le loro concrete manchevolezze non cancellano la consistenza ideologica di questa autorappresentazione del potere regio. L'intraprendente soggiorno del visitatore riaffermava l'autorità sovrana, materializzandola in modo eclatante dinanzi alla popolazione e alla sua classe dirigente. Nella persona del suo rappresentante straordinario, il monarca si riproponeva quale riferimento concreto per chi si ritenesse oppresso e volesse rivalersi secondo modalità inusuali. Vi erano poi finalità dissuasive nella drammatica ampiezza dell'istruttoria, un monito per chiunque avesse a che fare con l'apparato amministrativo giudiziario. La relativa eccezionalità dell'evento recava in sé una capacità di comunicazione fuori dalla norma. Si trasmetteva un avvertimento politico generale, cioè che l'inevitabile assenza del re non implicava un disinteresse verso Milano e che Madrid vigilava attraverso vari canali. Sebbene distante, oberata di impegni politico-strategici, travagliata da immani difficoltà logistiche e finanziarie, l'autorità monarchica era non di meno in grado di farsi sentire concretamente in tutto l'impero. Le visite generali svolgevano insomma un'importante funzione di rappresentazione e riaffermazione della potestà sovrana. Questa esigenza del potere regio di rendersi visibile ed avvicinarsi ai sudditi era particolarmente avvertita nel caso spagnolo. Per le dimensioni dell'impero, scusate, la sua dispersione territoriale, la sua composita struttura politico-istituzionale, la sua particolare condizione geopolitica. La risorsa informazione era tra le più agognate dalle autorità asburgiche e le visite generali ne fornivano in quantità alla politica imperiale. Conoscere per governare, insomma, ma anche conoscere per correggere le pecche del sistema, a cominciare da quelle che minavano il patrimonio regio, cruciale per alimentare la dispendiosissima politica di potenza della Spagna. Nel corso delle visite lombarde, grande attenzione era dedicata all'amministrazione finanziaria e fiscale, non tanto a caccia di singole malversazioni da sanzionare, quanto per individuare le carenze del sistema e proporre adeguati correttivi. Questa tensione riformatrice interessava anche altri settori e istituzioni, sino al Senato, massima magistratura indigena. Tali essendo i fattori implicati nello sviluppo delle visite, per valutarne l'efficacia non basterà criticare la sproporzione tra l'impegno profuso nelle indagini e le per lo più blande e tardive sanzioni, spesso per di più a lungo inapplicate localmente. L'efficacia disciplinare della visita non si misura esclusivamente dalle pene comminate. Già l'istruttoria poteva causare difficoltà agli inquisiti, disturbandone i maneggi, incrinando l'omertà che proteggeva le pratiche illecite, provocando requisizioni, incarcerazioni, sospensioni. Certo, anche così permaneva comunque un'oggettiva incongruità tra accertamenti e sanzioni. Ma qui entrava in gioco la politica. Per la reputazione del re era importante che la visita avesse luogo comunque. Se infatti la scarsa incisività dell'ispezione poteva disilludere i sudditi, ancor più grave sarebbe stato ritrarsi di fronte ai propri compiti tutori. Lo sfasamento tra istruttoria e giudizio era frutto, più che di impotenza, di una lucida scelta politica, essenziale per comprendere gli equilibri sui quali si reggeva la struttura imperiale. Nel valutare i dossier, Madrid doveva ricercare un difficile compromesso che, senza vanificare il lavoro del visitatore, non minasse però i rapporti con il patriziato lombardo, che deteneva molte tra le principali cariche giudiziarie e amministrative e rivestiva un ruolo sociale fondamentale, rappresentando un interlocutore politico ineludibile per le autorità asburgiche. Già all'inizio dell'ispezione, del resto, in nome della ragion politica, le istruzioni segrete del re potevano limitare considerevolmente le amplissime facoltà ufficialmente riconosciute al visitatore. Alla luce di questo approccio complesso, non si può negare alle visite generali una certa efficacia rispetto alle molteplici finalità che si prefiggevano. È soprattutto fuori dalla dimensione repressiva che si può cogliere la loro importanza. Non si giustificherebbe una simile mobilitazione di agenti e risorse da parte della maggior potenza dell'epoca soltanto per un'ottusa reiterazione di inani tentativi moralizzatori. Né si può immaginare che questo oneroso apparato rispondesse principalmente alla pur fondamentale lotta tra le fazioni politiche che dalla corte si irradiava nell'impero. La visita era considerata strumento prezioso per il governo imperiale, capace di far avvertire anche in periferia la presunta solidità e insieme magnanimità del potere sovrano, nonché di raccogliere un ricco bagaglio di informazioni difficilmente ottenibili altrimenti. Negli ultimi decenni del Cinquecento le visite generali giunsero a piena maturazione, quasi ad ostentare una strategia globale. Esse si svolgevano contemporaneamente nei domini italiani e Madrid tendeva a considerarle unitariamente, pur consapevole delle sostanziali differenze fra le tre province. Si accentuò inoltre la continuità tra le visite successive e si fecero più stretti i legami con il Consiglio d'Italia. Studiando le visite si incrociano questioni storiografiche di carattere più generale, quali ad esempio la natura della compagine asburgica o il dibattito sullo Stato. Utilizzando una terminologia imperiale, si sottolinea la complessità dei domini asburgici, in strettissima correlazione con la capacità di Madrid di concepire una politica relativamente organica, percepibile ad esempio nella circolazione di denaro, merci, truppe, personale. Non mancano critiche a tale impostazione, che sottovaluterebbe l'eterogeneità dei territori asburgici. Simili rilievi evidenziano utilmente la varietà di forze, risorse e interessi in gioco, nonché il rischio di sopravvalutare la capacità organizzativa degli Asburgo. Scegliere un approccio imperiale non significa però disconoscere la rilevanza dei fattori di frammentazione e diversificazione, né sostenere che Madrid mirasse a uniformare l'intera compagine imperiale con una centralizzazione spinta. Al contrario, le stesse necessità della politica imperiale costringevano la Spagna a interagire con una pluralità di agenti, capaci di proporsi quali interlocutori tutt'altro che sprovveduti nell'arena del potere. Vari aspetti della storia delle visitas sconfortano questo approccio. Tra l'altro, il fatto stesso che un istituto castigliano fosse utilizzato in America ed Europa risulta emblematico della politica imperiale, pragmaticamente condotta in questi decenni dagli Austri, pur tra mille difficoltà, non rinunciando a irrobustire l'azione regia e intensificare il coordinamento tra le varie componenti, senza però sconvolgere gli equilibri preesistenti. Recenti apporti storiografici hanno consentito di superare un certo determinismo che vedeva nello Stato il solo agente politico degno di attenzione, relegando gli altri in categorie residuali. Sensibile ad agenti e relazioni di altra natura, questa revisione appare indubbiamente salutare. Non di meno, talora le critiche alla tradizione, tra virgolette, statalista, sono risultate fin troppo radicali, oltre che piuttosto sterili dal punto di vista euristico. Nella recente storiografia lombarda, ad esempio, non persuade una pervasiva, un po' dogmatica astatualità delle formazioni sociopolitiche di antico regime, incentrata su corti, cortigiani, reti clientelari, lotte fazionali, cioè a dire su fattori rilevantissimi, indubbiamente, ma non certo esaustivi, né sempre convincenti nel loro impiego, specialmente allorché sembrano operare in una sorta di vuoto strutturale, tra virgolette. Espungendo a priori certe, tra virgolette, categorie statuali e certi fattori strutturali dalla nostra cassetta degli attrezzi, risulterà più difficile cogliere la pluralità delle condizioni, la precarietà degli equilibri, la complessità delle relazioni, la peculiarità dei valori che costituivano l'orizzonte quotidiano degli agenti, con le loro sensibilità, ambizioni, paure, strategie. Ritengo che lo studio delle visite consenta un approccio più equilibrato e complesso, attento agli interessi costituiti, alle comunità, al patronage, alle fazioni di corte, le quali attraverso complessi intrecci clientelari estendevano la propria azione sino alle province, talora strumentalizzando a tal scopo le visite. Ma un approccio che valorizzi anche aspetti più strutturali e non tema di riconoscere fasi di maggiore incisività del potere sovrano, peraltro non monolitiche né irreversibili, come dimostra proprio lo stesso declino delle visite generali dopo il 1620. La visita seicentesca dell'Aro, studiata da Massimo Giannini, prevedendo indagini sulla situazione religiosa in Lombardia e sui benefici ecclesiastici di provvista regia, destò viva inquietudine negli ambienti ecclesiastici, appena usciti da anni di asperrime contese giurisdizionali. La tensione latente esplose alla fine del 1606, con un durissimo scontro tra Laro e Federico Borromeo. Il casus belli fu l'indagine sul senatore Papirio Cattaneo, il quale, benché incaricato di tutelare la giurisdizione regia, era amico del Borromeo, cosa alquanto sospetta il visitatore, intenzionato a verificare lo stato della giurisdizione regia. Si giunse così alla scomunica dell'Aro, in base alla bolla in cena domini, avendo il visitatore interrogato un ecclesiastico senza licenza del vicario arcivescovile. Un caso analogo a quello del 1599, allorché Clemente VIII aveva scomunicato il precedente governatore di Milano per l'irruzione di alcuni soldati spagnoli nel palazzo arcivescovile. Le condizioni generali erano comunque notevolmente mutate nel frattempo, per i buoni rapporti tra il nuovo governatore Fuentes e il Borromeo e per l'indirizzo più conciliante che Chiesa e Corona perseguivano nelle loro relazioni. Mentre il Fuentes tentava di ammorbidire Laro, il cardinale scriveva al duca di Lerma, favorito di Filippo III, vantando l'importanza della Chiesa ambrosiana per il mantenimento della pace interna in Lombardia, ma mostrandosi nel contempo disponibile scusate, a una definizione pacifica della controversia per evitare una nuova escalation conflittuale. Revocata la scomunica, restava insoluto il problema che l'aveva originata, cioè la comparizione di testimoni ecclesiastici di fronte a un tribunale secolare. Scusate. La questione non era risolvibile localmente, le trattative si protrassero a Roma per alcuni mesi, non senza ripensamenti e diffidenze, coinvolgendo vari personaggi e istituzioni, sino a che nel marzo 1607 un breve di Paolo V sancì un compromesso, soddisfacendo molte esigenze spagnole, ma disponendo un controllo delle gerarchie ecclesiastiche ambrosiane sull'esercizio dei poteri concessi dal Papa al visitatore. L'episodio dimostra l'attenzione dei visitatori per le questioni ecclesiastiche, per nulla sorprendente del resto, vista l'importanza religiosa, economica, politica, sociale della Chiesa nello Stato di Milano, e considerando quanto ciò contasse per gli Asburgo in termini di stabilità politica in un'area strategica cruciale nel contesto internazionale. Un'ordinata convivenza tra laici ed ecclesiastici era essenziale per alimentare il consenso e impedire il temutissimo contagio dell'eresia. Ciò spiega la vigilanza sul clero dei domini italiani e di Milano in particolare, per prevenire l'invio di ecclesiastici non graditi politicamente, controllando le nomine agli episcopati lombardi e ai benefici sottoposti a giuspatronato regio. Emerge poi l'importanza di personaggi come il Borromeo. Governatori, visitatori e altri ministri asburgici trovarono in Carlo e anche in Federico interlocutori autorevolissimi, in grado di confrontarsi con loro da pari a pari, tenendo loro testa nei frequenti conflitti, ma intrattenendo relazioni costruttive quando possibile. La loro leadership poggiava su una fitta rete di rapporti personali, in ambito milanese e non, di cui è emblematica l'amicizia tra Federico e il senatore Cattaneo, oltre che su una potenza familiare, testimoniata in modo eclatante come ovvio dallo Stato Borromeo, fatta di ricchezza, forza militare, influenza politica, preminenza sociale e carisma religioso. Questa competizione per il potere non va letta come una semplice contrapposizione tra laici ed ecclesiastici o tra spagnoli e lombardi. Basti pensare agli interessi finanziari che sin da giovane avevano legato Carlo Borromeo alla potenza asburgica, agli importanti incarichi politici e diplomatici affidati da Madrid ad alcuni Borromeo, o ancora all'intricata vicenda di Arona. Né a giustificare le strategie di certi personaggi bastano spiegazioni univoche. Rispondendo al Fuentes, Laro imputò al Borromeo di voler non solo indebolire la giurisdizione regia, ma anche tutelare gli enormi interessi dello Stato Borromeo, retto dal fratello Renato. Non importa tanto stabilire la veridicità dell'affermazione in questa sede, quanto riflettere sulla sua verisimiglianza agli occhi dei contemporanei, per cui Laro poteva sostenere una plausibile coesistenza tra motivazioni più generali e impersonali, lo scontro tra due giurisdizioni, e moventi decisamente più particolaristici e politici, tra virgolette, la difesa degli interessi familiari. La figura del Fuentes è esemplare della necessità di superare certi schematismi interpretativi. Falco per antonomasia nell'età pacifista di Lerma, fautore di una politica estera forte che restaurasse la reputazione del sovrano, artefice del rafforzamento militare lombardo, egli fu invece molto accomodante nella querelle tra Laro e il Borromeo. Là dove, superficialmente, si sarebbe forse immaginato un comandante tetragono al compromesso, ecco invece un fine politico, attento al contesto entro il quale operava. I rapporti con la potestà ecclesiastica rientravano dunque nella complessa gestione della politica imperiale, alla cui luce abbiamo letto le visite generali. L'arrivo del visitatore, relativamente estraneo agli equilibri di potere locali, generava non solo contrasti con le autorità laiche, ma anche tensioni con le potentissime gerarchie ecclesiastiche, innescando dinamiche complesse che non si esaurivano localmente, ma coinvolgevano i più alti livelli del potere, a Roma come a Madrid. Gli artefici della politica asburgica dovevano districarsi in un ginepraio di problemi, tentando di definire un compromesso tra la tutela di alcuni interessi fondamentali e la riaffermazione della propria autorità, da un lato, e la prudenza politica tesa a garantire la quietud del dominio e della penisola, dall'altro. Su di loro si esercitavano pressioni contrastanti, quella delle gerarchie ecclesiastiche lombarde e romane e quella opposta dei più aggressivi ministri asburgici e dei più intransigenti patrizi, custodi della tradizione amministrativa ducale anche in materia di giurisdizione. L'episodio del 1606 riflette questo sofferto pragmatismo, allora consolidatosi con il rasserenamento nei rapporti tra Chiesa e Corona. Assumono così pieno significato gli interventi esercitati a vari livelli da parte asburgica sul visitatore, in favore di un approccio più cauto verso gli ambienti ecclesiastici. Il sovrano, il governatore e il Consiglio d'Italia, pur cercando di tutelare per quanto possibile le prerogative laiche, mostravano di anteporre la conservazione della quietura ad altre considerazioni. Questo, in definitiva, era il supremo interesse della Corona. Vi ringrazio e scusate l'esposizione. Ringraziamo molto Rizzo per la sua esposizione molto chiara e soprattutto per l'ultima parte del suo intervento, che credo possa poi sollecitare notevoli, importanti interventi nell'ambito della discussione.